Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di narrativa italiana e partiamo con due romanzi di stampo risorgimentale che tra l'altro convergono sulla stessa pagina, quella della Repubblica Romana del 1848-49. Il primo titolo che vi propongo è di Ugo Riccarelli, La Repubblica di un solo giorno, è pubblicato da Mondadori, 164 pagine, 18 euro. Questo è un libro particolare perché rappresenta la trasposizione o il punto di vista narrativo, come dice l'autore, di una vicenda che Riccarelli ha portato sulle scene con un testo scritto assieme a Marco Baliani e Maria Maglietta. Siamo appunto nei mesi convulsi della Repubblica Romana proclamata nel 1848, la Repubblica annunciata dopo la fuga di Pio IX e che finisce con l'assedio vittorioso dei francesi nel luglio del 1849. Proprio il 3 luglio l'Assemblea Costituente approvava la Costituzione di quella Repubblica, ma il giorno dopo l'Assemblea sarebbe stata sciolta dai francesi e Giuseppe Mazzini, che era stato con Giuseppe Garibaldi uno dei protagonisti di quella pagina, avrebbe lasciato Roma. Il romanzo vede appunto la vicenda sviluppata nelle avventure di tre giovani reduci dalle cinque giornate di Milano, e le cui avventure romane si intrecciano con quelle di una prostituta e di un borsaiolo giovanissimo che ritroveranno dignità e fiducia in se stessi proprio in quella circostanza. Utile l'appendice del romanzo con la Costituzione della Repubblica Romana, esemplare per brevità e chiarezza di impegni. Ripassiamone alcuni articoli. Costituzione della Repubblica Romana, 1849. Principi fondamentali. Primo, la sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato romano è costituito in Repubblica Democratica. Secondo, il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta. Terzo, la Repubblica, con le leggi e con le istituzioni, promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini. Quarto, la Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli, rispetta ogni nazionalità, propugna l'italiana. Diritti e doveri dei cittadini. Articolo 3. Le persone e le proprietà sono inviolabili. Articolo 4. Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto o per mandato di giudice, né essere distolto dai suoi giudici naturali. Articolo 5. Le pene di morte e di confisca sono proscritte. Articolo 6. Il domicilio è sacro. Non è permesso penetrarvi che nei casi e modi determinati dalla legge. Articolo 7. La manifestazione del pensiero è libera. La legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva. Articolo 8. L'insegnamento è libero. Le condizioni di moralità e capacità per chi intende professarlo sono determinate dalla legge. Articolo 9. Il segreto delle lettere è inviolabile. Articolo 14. La legge determina le spese della Repubblica e il modo di contribuirvi. Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, né percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato. Ordinamento politico. Articolo 15. Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall'assemblea, dal consolato, dall'ordine giudiziario. L'assemblea. Articolo 27. Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato senza permesso dell'assemblea, salvo il caso di delitto flagrante. Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l'assemblea, che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo. Articolo 28. Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunziare. Consolato e ministero. Articolo 35. Vi sono 7 ministri di nomina del consolato. 1. Degli affari interni. 2. Degli affari esteri. 3. Di guerra e marina. 4. Di finanze. 5. Di grazia e giustizia. 6. Di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici. 7. Del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza. Articolo 42. I consoli sono alloggiati a spese della Repubblica e ciascuno riceve un appuntamento di scudi 3.600. Potere giudiziario. Articolo 49. I giudici, nell'esercizio delle loro funzioni, non dipendono da altro potere dello Stato. Articolo 50. Nominati dai consoli e in consiglio dei ministri sono inamovibili. Non possono essere promossi, né traslocati che con proprio consenso, né sospesi, degradati o destituiti, se non dopo regolare procedura e sentenza. Articolo 54. Vi è un pubblico ministero presso i tribunali della Repubblica. Articolo 55. Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che sia vi luogo a gravame, i consoli e i ministri messi in stato di accusa. L'altro romanzo risorgimentale è una prova ambiziosa e secondo me riuscita di un esordiente, Alessandro Mari. Il titolo è Troppo umana speranza, è pubblicato da Feltrinelli, 450 pagine, 18 euro. Non spaventatevi per la mole, perché il libro è scorrevole, leggibile, vi troverete varie storie ambientate nell'Italia e non solo, all'inizio ancora pre-risorgimentale, poi sempre più animata dalle grandi vicende del risorgimento e dei suoi protagonisti, tra i quali ritroviamo Garibaldi, di cui seguiamo anche la travolgente storia d'amore con Anita. Ma Garibaldi è solo uno dei quattro principali protagonisti della storia, gli altri sono tre figure apparentemente insignificanti: un ragazzo che trasporta letame, un pittore gigolò che scopre la fotografia e si mette a smerciare le prime immagini pornografiche, una ragazza fuggita da un reclusorio femminile e tante altre anche più famose, tra cui quella di Mazzini. Tutte insieme queste figure compongono un affresco che si riconnette a quello più ampio della storia d'Italia. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno ad Alessandro Mari. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Alessandro Mari, è un romanzo decisamente ambizioso questo, anche per l'impianto, con tante storie che si intrecciano, personaggi storici, una documentazione che lei appunto illustra essere stata piuttosto analitica. E quindi un romanzo che si stacca, mi sembra, dalla tradizione, dalla narrativa italiana di questi anni. Ma diciamo di sì, nel senso a posteriori, nel senso che non è stata una cosa di intenzione, ecco. Diciamo che io sono partito modestamente con un personaggio che è, diciamo, questo colombino, che è un contadino villano, diciamo così, un po' idiota, che è principe di questa storia, ma il sentimento che lui aveva dentro di sé ho cercato in verità di ambientarlo in una, diciamo così, in un tempo contemporaneo, ma non sono riuscito. Sicché sono tornato a un periodo che conoscevo bene, perché mi pareva che questo sentimento, insomma, riecheggiasse e anzi trovasse sintonia con quel momento storico, e così è nato, diciamo, il romanzo, e da lì poi l'impianto molto più ambizioso, perché a Colombino ho voluto dare dei compagni di viaggio, se così si può dire. E il periodo è quello risorgimentale. Qui lei ha colto l'opportunità del 150enario o appunto è stata una scelta alla quale è arrivato indipendentemente dal calendario? In verità il romanzo è nato più di 5 anni fa alla stesura, quindi diciamo che l'intenzione non era quella di celebrare o festeggiare il compleanno dell'Italia Unita, però ovviamente l'editore non è uno sciocco e ha colto l'occasione di poterlo pubblicare una volta che ha creduto nel progetto, nel momento migliore, che è appunto questo, ecco, sarebbe stata una sciocchezza non farlo. E lei ha scommesso comunque sul romanzo storico, che è un genere che appassiona sempre. Questo sì, devo dire di sì, a me personalmente ha sempre affascinato, e in più, ecco, come dicevo, è stata l'esigenza stessa della storia che avevo da raccontare a ricadere in quel periodo storico, non fosse altro appunto per il sentimento dei personaggi. Poi io ho una simpatia per il Risorgimento, in particolare per gli anni che racconto, che sono dal 1839 al 49, ossia la caduta della Repubblica Romana, che io ritengo essere comunque il sogno più grande del Risorgimento, e quindi mi è venuto naturale ambientare di la storia, affondare appunto con letture o indagini quel periodo per restituirlo quanto più di carne possibile. Ecco, volevo fuggire un po' ai marmi rappresentativi o la retorica, ecco, questo sì. E quindi Repubblica Romana, però per le prime diverse centinaia di pagine c'è una forte impronta lombarda in questo romanzo. Sì, perché come dicevo, uno dei personaggi, se non il personaggio principale di questo romanzo, è Colombino, che è un idiota nel senso letterario del termine, ovviamente, nato in un piccolo borgo di allora che era Sacconago, che oggi fa parte della città di Busto Arsizio, e vive una vita tutto sommato da villano, cresciuto dal curato del paese perché lui è orfano, e vive una storia tutto sommato umile, perché appunto mi piaceva vedere, insomma, come erano quegli anni vissuti dal basso, ecco. Poi Colombino avrà l'opportunità, perché lotta per conquistare l'amore di una persona che ama, di attraversare l'Italia di allora e così entrare a contatto con grandi personaggi storici, tra cui ovviamente Garibaldi. C'è anche un proto imprenditore tra i suoi personaggi lombardi, sì. Lisander. Sì, diciamo così, Lisandro è il poco di buono del romanzo, nel senso che io lo chiamo appunto malnato alla milanese, perché è un pittore di vaglia che si diverte e ovviamente si fa mantenere, diciamo così, dalle donne che ritrae all'inizio del romanzo, ma poi si lascia affascinare dalla tecnica fotografica che in quel momento viveva ai suoi albori, e ne fa però uno smercio, diciamo così, piuttosto bieco, nel senso che lui comincia subito a trafficare immagini pornografiche, e non mi sono immaginato niente di particolare, perché la storia della fotografia lo documenta, insomma, che accanto alla nascita dei primi grandi esperimenti subito nasce, pochi anni dopo, questo commercio, diciamo, più oscuro, che è il lato oscuro della modernità, ed è il più intraprendente, diciamo, è il personaggio forse più moderno, nel senso che è il più grigio scurale, ecco. Senta, alcuni dei personaggi del suo romanzo sono dei protagonisti che poi saranno addirittura monumentalizzati del Risorgimento, Garibaldi evidentemente, e poi ce ne sono invece tanti altri che a modo loro però diventano essi pure protagonisti del Risorgimento. Ecco, questa contrapposizione tra i personaggi famosi e quelli meno noti come personaggi che lei racconta, può servire anche a sfatare l'impressione di un Risorgimento senza popolo? Ma io credo che il Risorgimento senza popolo sia una questione prettamente retorica, nel senso che basta andare a leggersi la cronaca delle Cinque Giornate di Milano per vedere che appunto i milanesi non avrebbero potuto vincere gli austriaci se fossero stati solo i cosiddetti radicali facinorosi o mazziniani, che li si voglia chiamare, insomma. Ma se non avessero appunto avuto il popolino che faceva le barricate, i forconi dei corpi santi attorno a Milano, ben poco si sarebbe realizzato. E poi basta andare a vedere le tombe sparse per il paese per rendersi conto che al di là, insomma, dei capi storici delle battaglie o degli ideologi, insomma, da Mazzini, Garibaldi e via dicendo, quelli che poi sono morti per fare questo paese avevano 20 e 30 anni ed erano ragazzini, ragazzini che venivano spesse volte da tutti gli strati della popolazione e spesso dal popolino, perché va ricordato che allora, insomma, non combattevano per un esercito come poteva essere quello dello Stato Sabaudo o quello austriaco, intendo. Chi partiva con Garibaldi partiva volontario, quindi non aveva la razione solita dell'esercito, non aveva il soldo di paga, spesso abbandonava magari qualcuno a casa, ecco. Erano giovani che partivano con il sogno di un paese, e quindi mi sembra riduttivo e anche un po', insomma, ripeto, una questione prettamente di retorica oppure di piegare la storia all'attualità del presente politico, quello di dire che il Risorgimento sia appartenuto solo a un'elite di politici o massoni, ecco. Senta, nel suo viaggio per l'Italia Colombino a un certo punto la scopre e ha un'immagine stranissima ma affascinante, cioè dell'Italia come l'interno di un maiale, la vede, cioè ricca, che è un'immagine appunto singolare però a modo suo affettuosa del paese che sta scoprendo. Sì, l'immaginario di Colombino ovviamente è quello di un villano, quindi cosa c'è di meglio per un villano che un maiale, e l'adagio vuole che il quale non si butta via niente, no? Nel senso che appunto l'Italia di allora per lui, benché appunto sia formata dalla stessa diversità che abita sotto la cotica il maiale, perché del maiale appunto si possono mangiare l'interiore, i polmoni, la carne, i quarti, via dicendo, ecco, tutta questa diversità è tenuta assieme dalla bestia in sé, come l'Italia di allora, insomma. Bene, noi invece divoreremo il romanzo di Alessandro Mari, Troppo umana speranza. Grazie e buona domenica. Grazie a lei, salve. Un altro romanzo di occasione risorgimentale, ma che venne scritto in occasione del centenario, quindi nel 1961, è il libro di Giovanni Arpino, Le mille e una Italia, pubblicato da Lindau, 246 pagine, 19,50 €. Questo è un altro viaggio per l'Italia, ma all'incontrario, perché si parte dalla Sicilia per arrivare al nord. Un viaggio che permetterà al protagonista Riccio di risalire il paese fino al Monte Bianco, dove il padre lavora come minatore allo scavo per il tunnel che collega l'Italia alla Francia. In questo viaggio Riccio rivivrà attraverso i luoghi che incontra alcune delle pagine della storia d'Italia. Per esempio, fuori Firenze entrerà in una bettolaccia dove incontra alcuni gaglioffi intenti a giocare a carte. Ne seguirà uno a casa e ne scoprirà le strane abitudini. Appena arrivato infatti dentro casa, l'uomo indossa un'elegante veste da camera e comincia a scrivere. E a quel punto Riccio si chiede se quello sia uno stregone, un generale o un ministro. Forse, e continua, tutte e tre le cose. Forse stava progettando come stregone, ministro e generale chissà quale congiura a favore di un principe contro un altro principe. Forse tracciava i piani per la conquista di uno stato, per vincere i nemici col ferro e col veleno. Insomma, l'avrete riconosciuto, si è imbattuto in Niccolò Machiavelli. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubo. Proseguiamo allora con la narrativa italiana e in particolare con la seconda prova di un giovane scrittore, Federico Baccomo, che col nome di Ucesna aveva avuto il successo col libro Studio Illegale. Adesso pubblica La gente che sta bene, dove troviamo ancora degli avvocati in azione, il libro è pubblicato da Marsilio, 270 pagine, 17,50 euro. Il protagonista è Giuseppe Ilario Sobreroni, il classico professionista di successo milanese, questo un po' sbruffone, un po' cinico, molto compiaciuto di sé, che vede nella famiglia poco più che un palcoscenico ulteriore per il proprio successo. Ma la ruota della fortuna può girare, la sicurezza si può ben presto sbriciolare fino a rasentare il dramma. E qui abbiamo un bel quadro di un mondo vacuo in cui il successo non è il riconoscimento dei propri meriti, ma un malloppo da arraffare con cinismo che non dà spazio a sentimenti e tenerezza. Addirittura quando la moglie affranta perché costretta dal marito ad abortire, non è capace di dirle altro che la sua reazione è soltanto una prova di fallimento. Ma sentiamo come si presenta lui stesso, il protagonista, in un'intervista che naturalmente finirà in un disastro. Se è d'accordo, possiamo cominciare. Ci sono. Via. Io sono Giuseppe Ilario Maria Sobreroni. Ho 42 anni e voglio essere sincero, sono un uomo di successo. No, aspetti, non deve correre. Scusi? Questa frase, sono un uomo di successo, non lo sente. C'è già un sapore di rivelazione. E allora magari la diciamo dopo, costruendo il giusto afflato, il climax, per arrivarci con gradualità. Come frase di chiusura, per esempio. Per esempio, è un'idea, una buona idea. Passa un messaggio positivo, successo. Ultima parola, successo, poi il punto. Esclamativo? Sicuramente esclamativo. Un ottimo artificio retorico, devo dire. Bravo, Sombreroni. Il tratto che preferisce del suo carattere? Io sono uno che arriva dove vuole arrivare. Le sue principali caratteristiche? Astuzia, ingegno, forza. La sua idea di felicità? Il salto di una staccionata. Mi scusi? Sì, l'idea di superare un confine, di oltrepassare un limite. Non va bene? Mi sembrava un'immagine riuscita. Uno scrittore giovane ormai affermato è Giuseppe Culicchia, che pubblica A me in inganni con Mondadori, 214 pagine, 18 euro. Il protagonista del libro è un perdente per definizione, uno specie di bamboccione di provincia rimasto solo, dominato da due passioni esclusive e assorbenti nelle quali si esaurisce la sua vita. La collezione di modellini di astronavi, una passione coerente con gli studi falliti in fisica, è quella di riviste pornografiche. Per lui non ci sono altri orizzonti, la solitudine non gli fa paura, problemi economici pensa di non averne, salvo poi avere un'amara sorpresa. E anche il ritrovamento di una vecchia fiamma è solo l'occasione per una sorta di demenziale illusione che lo vede al fianco di una donna che di lui non vuole più sentir parlare e alla quale pure inventa delle storie inverosimili. Insomma, un fallito consapevole che molto ci dice della solitudine e dei traumi nei quali poi possono maturare fatti di cronaca che lasciano tutti interdetti e sbigottiti. Sentiamo dal libro una breve descrizione dell'ambiente e del personaggio. Alberto. Oggi sono tornato al centro commerciale sulla strada statale. Il classico cubo di cemento imbandierato che nel giro di pochi anni ha fatto chiudere un tot di negozi in paese. Mi piace fare la spesa qui. Arrivi, entri, giri, prendi, paghi, te ne vai e non sei costretto a parlare con nessuno. Senza contare che la benzina costa meno, se per caso decidi di fare il pieno al self-service, poco prima dell'uscita anziché in un normale distributore. Se andassi a fare compere in paese dovrei salutare un sacco di gente, che oltretutto si sentirebbe in obbligo di farmi le condoglianze per mia madre. Io ho sempre odiato entrare nei negozi, in paese. Forse perché a scuola, fin dalle elementari, sono sempre stato il primo della classe. Mio padre se ne vantava di continuo con tutti, ma per quanto mi riguardava, non c'era un bel niente di cui vantarsi, visto che a causa dei miei voti sono sempre stato il bersaglio preferito di tre o quattro miei compagni, forse meno intelligenti di me, ma senza dubbio più grossi. Torna invece a misurarsi con la prosa un grande poeta, Giuseppe Cucchi. E anche questo libro è pubblicato da Mondadori, si intitola La maschera ritratto, 140 pagine, 18 euro. Questo è un libro su un altro viaggio, da Milano verso la Svizzera prima e poi verso Catania, alla ricerca di notizie sulla scomparsa misteriosa prima del padre e poi del nonno, due figure che sono tenute insieme da Tina, la madre del narratore, moglie e figlia dei protagonisti muti. Un romanzo questo di Cucchi, di parole e di impressioni, alla fine del quale lo scrittore ci dà una sorta di illuminazione sul proprio mestiere di poeta e sulla sua ambizione di mischiare i generi. Il mio progetto, in fondo, è semplice. È necessario oltrepassare i generi. O almeno, io sento il bisogno di farlo. La mia convinzione è semplice. La poesia può riassumere in sé il racconto, la riflessione, lo stacco lirico nella forza e nella verità della parola, nell'economia potente della parola. Troppo narrare gira su se stesso. Eccede e annoia con un mare di parole espressivamente scariche. E i lunghi, noiosissimi poemi, cadenzati o rimati, una risposta ingenua alla necessità di un progetto forte e articolato, vivo. E del poeta Maurizio Cucchi segnalo il libro Cronache di poesia del Novecento, è pubblicato da Gaffi, 462 pagine, 18 euro, curato da Valeria Poggi. Questa è una scelta dei numerosissimi interventi di Cucchi pubblicati nell'arco di 40 anni su temi di letteratura, poesia, arte e cultura in generale. Troviamo qui saggi, schede, recensioni, considerazioni sulla poesia, personaggi che ci danno un quadro molto completo della letteratura degli ultimi decenni e rivalutano l'importanza della poesia. Non amata dai mass media, spiega qui Cucchi, perché la poesia, scrive, conta sulla profondità, la complessità e la durata, mentre la società spettacolo gioca sulla superficie, la semplificazione e l'immediato futile. I cosiddetti mass media, conclude, non amano la poesia perché non la conoscono e perché fa pensare. E allora, per abituare anche i più piccoli alla poesia... Il confettino. Segnalo un libro di Filastrocche, Tutti per tutti, poesie per bambini di Julian Tawin, è tradotto da Marco Vanghetti e illustrato da 6 artisti polacchi. Il libro è pubblicato da Orecchio Acerbo, 136 pagine, 23,50 €. Un bellissimo libro illustrato che abituerà appunto i più piccoli alla musicalità della parola. E con questo ringrazio Claudio Carusi, redazione, Fabio Cantadori, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, sul quale potete riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.